domba, adu domba menang, adu domba, domba dipertahankan. Adu domba, adu domba menang, adu domba, domba dipertahankan. Adu domba, domba, ababa domba, adu domba. Don't.